Italia in controluce. È il 20 di luglio, vi parla Daniele Biacchessi, il programma Italia in controluce della redazione di Radio 24. Oggi è venerdì, ogni settimana a quest'ora do la linea a Piera Ceci con Scuola in controluce, il nostro focus, il focus di Radio 24 e di Italia in controluce sul mondo della scuola. Scuola in controluce. Sarà che scrivere mi viene naturale, sarà questo maestrale che riscende e poi risale, sarà che sto seduto su ste scale a ricordare cose che mi fanno solo male. È solo male. La prof arriva! C'è una festa? Ragazzi, almeno la prossima volta abbassate un po' la musica, perché si sentiva dappertutto. L'avrete riconosciuta, Camilla Baudino, protagonista del fortunato telefilm Provaci ancora prof. A scrivere soggetti Margherita Oggero, in questi giorni in libreria con L'ora di pietra, Mondadori, e che in passato ha scritto molti libri dedicati al mondo della scuola, come Orgoglio di classe, piccolo manuale di autostima per la scuola italiana e chi la frequenta. Sì, perché Margherita Oggero ha insegnato lettere per 33 anni ed è con lei dunque oggi che vogliamo parlare di quello che va e che andrebbe invece migliorato nella nostra scuola. Lei è in pensione da 15 anni, perché ci racconta è giusto che ad una certa età si lasci spazio ad insegnanti più giovani? Penso di sì, allora per alcuni motivi. Il primo è che, come giustamente lei ha detto, in realtà è un lavoro usurante, anche se nella percezione comune è un lavoro con 3 mesi di vacanza, è un lavoro a mezza giornata, insomma non è propriamente così, se uno lo vuol fare bene naturalmente, a parte che i mesi non sono 3, che ci sono gli esami, ci sono per certe materie, ma quasi tutte, insomma, la preparazione delle lezioni, la correzione dei compiti, la preparazione della documentazione da dare ai ragazzi. Da questo punto di vista non è più usurante degli altri mestieri, è usurante nel senso che i ragazzi hanno una vitalità enorme, giustamente, ci mancherebbe. Qualche e meno volta... male, insomma, sì, che però male, è anche difficile da gestire, certo, va gestita. Certo. Ecco, sì. Se il divario di età tra chi insegna e chi, insomma, i discenti diventa troppo forte, incomincia a crescere una certa difficoltà di comunicazione, c'è poco da fare. E quindi sì, dopo un certo numero di anni si comincia ad avvertire questa sorta di disagio, insomma. Certo. E secondo me lo avvertono anche i ragazzi. Ma a lei che cosa manca di quella scuola, seppur faticosa, come dicevamo? Guardi, mi sembra di essere contraddittorio, però non lo sono, provo a spiegarmi. In fondo mi manca proprio la vitalità dei ragazzi, che è quella che mi stremava, perché alla fine uno esce, sono chiassosi, sono rumorosi, sono cavalloni, eccetera. Però è proprio questa esuberanza che è quella che fa sì che uno non si rinchiuda, come dire, nella fossa della sua età, ecco. Senta, lei ha lasciato la scuola 15 anni fa. Sì. Come l'ha lasciata e come le sembra che sia cambiata oggi? Perché insomma lei continua ad occuparsi, comunque a interessarsi delle questioni di scuola, quindi immagino che avrà rapporti con insegnanti. Sì. E continuerà ad averne. Come è cambiata rispetto a quella che ha lasciato lei 15 anni fa? E la cosa più vistosa è che nei confronti della scuola è venuto un po' a mancare il sostegno della famiglia e poi è venuto a mancare il sostegno economico, ma questo è un discorso più recente. E cioè, mentre una volta l'educazione familiare procedeva di pari passo e in concordia con l'educazione scolastica, perché una scuola che si rispetti non è che insegna solo dei contenuti culturali, ma insegna anche degli altri tipi di contenuti, insomma, sentimentali, di comportamento e così via. Ecco, una volta c'era questa concordia che si riassumeva poi in quelle frasi tipiche, non so se te l'ha detto la maestra o il maestro, è giusto, va bene così. E poi comunque la famiglia si era avvertita dalla scuola di una certa discrepanza da parte del ragazzo, insomma, in comportamenti civili o comunque anche di scarso rendimento, la colpa non era del professore, era del ragazzo. Adesso, anche già negli ultimi anni, capitava che invece le famiglie addossassero tutte le colpe. Io mi sono decisa ad andare in pensione, cioè è stata la goccia, diciamo, ero già abbastanza dell'idea. Quando in terza superiore, la madre di un ragazzo, durante uno dei consigli di classe, prendendosela con me, mi ha detto: e poi lei pretende anche era l'anche che poi mi ha mandato in bestia, che i ragazzi scrivano senza errori di ortografia. Ora, in effetti, è una pretesa piuttosto bizzarra, eh? Lei era un'insegnante veramente bizzarra. Sì, allora ho detto: vabbè, se siamo a questi punti per cui se tu correggi un errore di ortografia sei o un pazzo o un aguzzino o uno che ce l'ha col ragazzo, eccetera, vuol dire che proprio un po' sono venuti meno quei fondamenti di fiducia che una volta esistevano. Uno, e questo è uno dei motivi per cui la scuola è cambiata. Poi indubbiamente ha influito in modo positivo e negativo, non sto dicendo che sia solo negativo, per carità, l'avvento di questi nuovi media che hanno per un verso insegnato ai ragazzi a fare tantissime cose, per altri versi li hanno, diciamo, un po' distratti da quella che era l'applicazione scolastica. E poi per ultimo, sono intervenuti dei tagli così pesanti sulla scuola, per cui lasciamo stare la carta igienica che bisogna portarsi da casa, ma insomma i libri non si comprano più per le biblioteche, o se ne comprano pochissimi, le uscite scolastiche in luoghi culturali, voglio dire, non solo per divertimento, vengono scoraggiate perché non ci sono più le compresenze. Io sfido. Sì, insomma, la scuola sta rinunciando a tutta una parte. Insomma, lo sappiamo tutti. Quindi ci stiamo avviando verso una quinta stagione di Provaci Ancora Prof. Sì, sì. Che scuola vuole rappresentare? Ma io intanto vorrei queste nuove sceneggiature, quindi in questi nuovi soggetti si rappresenta una scuola un pochino più problematica, perché è un altro tipo di istituto, insomma, quindi sono ragazzi, è un altro tipo di scuola, una scuola molto di periferia. Però insomma, l'ipotesi, il desiderio sarebbe quello di rappresentare intanto una scuola con degli insegnanti non ingessati, e insieme molto partecipi non solo della vita scolastica, diciamo così, dei ragazzi, ma anche insomma proprio dei loro interessi, dei loro desideri e così via. Cioè insomma una partecipazione anche di affetto, di vicinanza, non sto parlando di amicizia perché i ruoli devono essere distinti, però di forte partecipazione, forse perché io credo che le famiglie siano un pochino più distratte oggi nei confronti soprattutto degli adolescenti. Molti lavorano, oppure molti sono presi con il problema del lavoro che non c'è, che l'hanno perso, e quindi ci sono preoccupazioni così forti che tante volte il dialogo quotidiano con i figli viene un pochino meno. Quindi, o anche quando non viene meno, io vorrei che nella scuola ci fosse altrettanto dialogo con i professori. E poi una scuola di ragazzi sostanzialmente, non so, adesso sono antiquata, però dico anche un po' educati sul piano del comportamento, perché non so se aveva letto, sempre a proposito del ministro Fornero, quando era venuto in visita a Torino e si era messa a parlare all'ufficio di collocamento con dei ragazzi, con una coppia di ragazzi, e uno di questi diceva che era lì perché non trovava lavoro, e lei gli ha chiesto: ma che scuola ha fatto? Lui ha detto: la scuola alberghiera, o il cuoco. E dice: ma è strano, perché è uno dei pochi ambiti lavorativi in cui c'è sempre ricerca. E dice: beh, sa, a me non piace lavorare quando gli altri vanno in giro la sera a divertirsi. Ecco, però lei, chinata su di lui non si è alzato, niente, mai, c'erano le foto. Allora, per esempio, anche una scuola in cui i ragazzi di fronte a un adulto anche rappresentativo di una carica, magari se gli devono parlare si alzino in piedi, ecco. Quindi lei vuole rappresentare una scuola con una classe insegnante vicina ai ragazzi, perché le famiglie hanno i loro problemi. Hanno spesso i loro problemi, certo. E poi dei ragazzi sostanzialmente motivati nello studio, sia pure con tutte le resistenze che abbiamo avuto tutti, insomma, quante volte abbiamo detto no, questa volta non ho voglia di studiare e speriamo che non mi interroghi, insomma, non è mica una cosa. Quindi insomma va a rappresentare una scuola perfetta, forse però... Forse perfetta no, però diciamo un modello positivo. È un auspicio il suo, insomma. Ecco, se vogliamo, sì. Il dover essere al posto dell'essere, insomma. D'altra parte, continuare a rappresentare la scuola sfasciata, la scuola che non produce niente, non credo che soprattutto oggi sia positivo, ecco. Era Italia e Controluce, grazie a Piera Ceci. Torniamo lunedì 13:30 a Radio 24 con un reportage di Giorgia Mennuni sui concorsi universitari truccati. Vi ricordo che questa, come tutte le trasmissioni e le puntate di Italia e Controluce, potete scaricare in podcast su radio24.it e anche ascoltare. Siamo su Facebook, la pagina del gruppo, siamo su Twitter, la nostra mail per comunicare con noi, darci idee, raccontarci quali sono le vostre storie da proporre. Controluce@radio24.it.